Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Caro chef, come stai? Eccolo, bene, bene. Ah, tu beh, stai oggi, bene? Hai mangiato oggi, bene? Sì, sto bene, sto mangiato bene. Bene oggi, tutto a posto. Oggi voglio sentire l'anduia, voglio sentire le specialità calabresi. Però non lo pronunci, un po' come cacciera, non pronunci bene l'anduia. Fammela sentire un po' la pronuncia. Com'è che si pronuncia? No, io sono da milanese, non lo so. Chiediamolo al nostro amico, al nostro Tommaso ospite. Labate, buongiorno. Chi dice meglio Nduia? Nduia, come si dice? Maestro Dani. Ciao. Come si dice Nduia? Nduia, come si dice? Allora ragazzi, vi svelo un mistero. Cioè sì. L'Nduia è falsamente calabrese. Cioè certo. Nel senso che è veneta. È calabresissima, soltanto che riguarda un'area molto circoscritta alla Calabria, che è in particolar modo la provincia di Vibo Valentia e la nota Spilinga. È il processo, diciamo, di internazionalizzazione, cioè nel senso che è diventata di tutta la Calabria, certo. La Nduia va di pari passo con la sua notorietà nazionale. Tanto per capirci, io che sono nato e vissuto a Marina di Gioiosa Ionica, a 45 km alla Nduia, non l'avevo mai assaggiata fino a 10 anni fa. Certo, e tu sei sull'altra costa, no? Sei vicino... Costa, però proprio direttamente, tracci una riga dritta, esattamente. Tu sei vicino a Siderno, parte. A Locri, a Roccella Ionica, mentre Spilinga è, quindi la terra della Nduia, è accanto alla cipolla litropea. Praticamente. Esattamente, però guarda, sulla si è preparato naturalmente. Senti, qual è la tua, se parliamo di gastronomia e quindi di prelibatezze calabresi, qual è il pensiero, va all'infanzia e dove va, che piatto? Guarda, indiscutibilmente allo stocco. Lo stocco è lo stoccafisso ed è un pesce, originariamente un merluzzo pescato nei mari del nord e poi lavorato in particolar modo in due paesi della provincia di Reggio Calabria. Uno è proprio attaccato a me, si chiama Mammola e lavora lo stocco, da te che si chiama lo stocco di Mammola, penso che abbia una serie di riconoscimenti, ma su questo il maestro Oldani sarà più preciso di noi, anche perché questo merluzzo viene trattato con dell'acqua minerale di sorgente che deve avere un determinato quantitativo di sali, è perfettamente nel comune di Mammola da 400 anni lo lavorano. Lo stocco è quindi una specie di cugino povero del baccalà, che si fa ovviamente nel modo più comune, dico come lo fa mia mamma: pomodori pelati, olive, olio a morire, come se ti dimenticassi di avere qualsiasi tipo di colesterolo, e ci fai un mega meraviglioso sugo accompagnato dalla stroncatura, che questa pasta invece, questa pasta lunga un po' più spessa, diffusa invece nella piana di Gioia Tauro, olive, e ovviamente c'è una nuova scuola di pensiero che io ovviamente non sottoscrivo, che lo vuole accompagnato da una sgrattugiata di ricotta salata, mentre invece io sono ortodosso e lo ponzello con la, secondo me, Oldani invece è favorevole. Bravo, favorevole, stavo facendo una mia proposta, come possiamo capisco, trattare come su questa proposta. Io prenderei un pezzettino di Nduia pulita per bene, la frullerei, farei un patè di Nduia, poi prenderei il piccolo pezzettino di stoccafisso, o nel caso avessimo baccalà, insomma, scegliamo quale dei due. Una volta che lo cuociamo, che sia ben cotto lo stoccafisso o leggermente cotto al vapore il baccalà, spalmerei la parte superiore, farei intiepidire anzitutto poi la parte superiore con un velo molto millimetrico, molto sottile di Nduia e una macinata di pepe nero. Secondo me la morte sua questa. E una grattugiata di bergamotto. Questa te la posso appoggiare. Bello, ma devo dire che lo stocco alla mammolese, insomma, è una delle declinazioni dello stocco, che è uno dei... È anche questo un segno della ricchezza del nostro territorio, perché lo stocco tu lo mangi in Calabria, lo mangi in Veneto, lo mangi ad Ancona, ovviamente la stoccafissa ad Anconetana, lo mangi a Livorno, cioè è veramente da questo punto di vista un... Non siamo ai livelli del baccalà portoghese, ovviamente, però insomma anche nel nostro paese è particolarmente, no, particolarmente presente, è in meglio... luoghi anche molto diversi, no? Vabbè. Sì, Pier, assolutamente. Considera che hai citato proprio le Marche, sono un'altra, un'altra, come dire, regione che spinge lo più stocco per il baccalà. Vi rivelo, diciamo, un retroscena. Ugo Sposetti, mio amico, grande certo. tesoriere dei DS, ex senatore, conoscendo la mia passione per lo stocco, organizza una volta l'anno dalla zia a Tolentino una mangiata di stocco e mi telefona proprio per raccontarmi non per invitarti, non per invitarti. Vabbè, ma è sadico. Scema dall'invito, però non ci sono mai potuto andare perché però la radio cronaca è ovviamente, come tu dici, a Roma lo stocco non esiste un po', no, esatto. calabrese dove andarlo a mangiare, semplicemente esatto. non c'è. Cucina calabrese è cucina proprio povera, no? Cucina di popolo, di terra, anche se il mare ovviamente ha una sua grandissima forza. No, vedi perché sei il numero uno. Per considerazioni come questa, esattamente, cogli esattamente lo spirito della Calabria, anche dei posti di mare, perché come succede anche per la Sardegna, anche i borghi marinari della Calabria hanno come tradizione tipica culinaria quella dei piatti di montagna, di terra, e non quelli di mare, mentre solitamente molto spesso l'osservatore meno attento di Pierluigi Pardo dice vabbè, siamo in una località marinara, la specialità sarà senz'altro marinara. Invece la tradizione culinaria della zona di mare, di molte zone di mare della Calabria, così come della Sardegna, così come per esempio di Ischia, no? Che è addirittura un'isola come la Sardegna, sono più ancorate alla terra. Quindi constatazione 10 e lode, bravo Pierre. Vabbè, grazie. Grazie. Si vede che siamo amici. No, devo dire che poi adesso stiamo per affrontare la Sardegna, ovviamente nelle prossime puntate. In Sardegna sai che c'è tutta questa tradizione delle case che guardano verso la terra, no? Di un popolo che soprattutto ovviamente nella sua parte più tradizionale e meno sulla costa, aveva quasi paura del mare. No? Il mare ovviamente è un simbolo di identitario affascinante, meraviglioso, ma che può portare con sé anche tutta una serie di inquietudini e di rischi. Quindi anche lì c'è una forte tradizione, mitico Porceddu. Manca poco al Porceddu, caro Oldani. E ci rifaremo, come no? Fra poco noi parleremo di frittura di broccolo, di frittata senza uova, di tegola di mandorle, di una pasta speciale che hai preparato. Ma quanto ti ispira la Calabria, chef? Beh, tanto, anche perché l'ultima visita che ho fatto sono andato a Diamante a vedere, a visitare, ad assaggiare i peperoncini e a visitare anche il Museo del Peperoncino, che tu sai è una cosa fantastica, per cui mi sono fatto una cultura e devo dire che il piccante nel mio modo di vedere l'alimentazione è entrato non tanto tempo fa, per cui parlo di una quindicina d'anni fa, da buon milanese mi sono avvicinato piano piano e da lì ho capito che qualcosa di piccante nella cucina ci vuole, per cui sono andato a farmi il mio giro. Esatto, ho mangiato. Lei l'abate, quanto piccante mangia? È un vero calabrese? Sì, moderatamente, per esempio c'è un tratto comunque indiscutibile del mangiare piccante e lo chef Oldani probabilmente, visto quello che ha detto, sarà d'accordo. Rispetto a delle materie prime con dei sapori particolari, il piccante indiscutibilmente va a coprire il sapore di un prodotto buono. Certo, questo non vuol dire che come accompagnamento, come tocco ci può stare, ma mangiare piccante per mangiare piccante fine a se stesso, per esempio rispetto allo stocco, come tu dicevi, certo, ha una sua forza rispetto anche al baccalà, sono come due numeri 9, lo stocco però è Lukaku e l'altro per esempio Carico, no? Penso che Dani sia d'accordo con te, visto che condividete la stessa fede calcistica. Grazie a Tommaso Labate, fra grazie, poco partiamo Tommaso. Col menù, tante altre sorprese adesso, Soldani, mille cose. Mangia come parli. E cominciamo a mangiare qualcosa, chef? Beh, io direi di sì, ecco. Una frittura di broccolo calabrese alla birra, direi. Facciamo un mix, diamo una ricetta di una pastella per friggere che arriva dai giri, dei viaggi che ho fatto nel mondo e che ho adattato al broccolo calabrese, per cui 250 grammi di farina di grano duro, un decilitro di birra chiara, un grammo di polvere di peperoncino di Diamante, naturalmente un paese fantastico per questo prodotto, poco sale, sbattiamo tutto per bene fino ad aver incorporato tutti gli ingredienti, aggiungiamo poi 80 grammi di albume albume d'uovo montato a neve, ascoltami bene, sì. Lo amalgamiamo bene a questa, questo composto, lasciamo riposare 2 o 3 minuti, poi noi prendiamo il nostro broccolo calabrese che naturalmente avremo lavato, asciugato, prendiamo tutti i nostri bei fiori, li intingiamo in questa pastella e li friggiamo. Io utilizzo sempre un olio di semi di girasole alla temperatura di 155 gradi, non di più, li facciamo dorare per bene, li scoliamo e li serviamo a parte in, potremmo anche metterli come, come aperitivo all'inizio di una cena o di un pranzo, con una spolverata, con una grattugiata di buccia di bergamotto, visto che siamo nella terra dove si produce anche il bergamotto. Per cui è un impasto, è una composta, una pastella di, per frittura molto particolare, perché l'albume d'uovo che viene amalgamato alla farina, come ho detto prima, e all'acqua, permette di fare l'involucro molto croccante all'esterno del broccolo, in questo caso, perché poi si possono utilizzare anche magari dei, dei molluschi o dei crostacei da friggere, da aggiungere al broccolo. Ecco, questo volevo chiederti, ci sono dei margini per personalizzare, perché in realtà il fritto, a Roma si dice che il fritto è buono tutto, però questo... però ci tengo a cioè, precisare che il segreto del fritto deve essere la purezza, la leggerezza, per cui dalla, dalla tempura a scendere si hanno molti metodi per friggere. Questo con l'involucro di albume d'uovo che si forma intorno al pesce o in questo caso al fiore di broccolo è molto importante, perché permette di salvaguardare la cottura molto croccante all'interno. Allo stesso tempo abbiamo la parte, l'involucro esterno che diventa croccante, per cui quello che noi vogliamo dalla frittura è il croccante e poi leggermente il morbido all'interno, e si riesce a racchiudere queste caratteristiche salvaguardando il prodotto che andiamo a friggere. Molte situazioni le fritture sono buone perché vengono stracotte o perché vengono usati oli a temperature molto alte, utilizzando l'olio a temperatura molto alta, per cui si raggiunge il punto di fumo, è meglio buttare via tutto perché è solo che è cancerogeno, per cui l'involucro che noi mettiamo diventa molto croccante, salvaguarda all'interno il prodotto, e per cui la frittura in questo caso è diventata molto buona. Devo dire che ci torniamo spesso su questo tema, no? Del, del punto di fumo, forse siamo anche un po' pesanti, però, no, però è vale veramente tutto. Importante, perché ne va della salute delle persone, e poi insomma è una cosa molto pratica, molto pratica, dove bisogna stare molto molto attenti. Abbiamo un amico con noi. È un grande amico, un grande professore, un grande professore che segue la cucina anche, giusto? Severino Salvemini, ciao. Segue tutto ciò che è cultura, credo, no? Quindi nel senso più profondo del termine, la cucina ne fa parte. Ciao Severino. Certamente, ciao. Buongiorno Davide. Economia, buongiorno a te, grazie di essere con noi. Economia, cucina, startup, cosa mi dici queste tre parole di cui tu sei molto appassionato, e poi insomma anche la tua professione. Ma, in bocconi. Che, diciamo, un elemento importante del Made in Italy, oltre alla moda, oltre al design, è proprio la ristorazione, la cucina e la gastronomia. E quindi bisogna fare in modo che questo faccia parte, in un certo senso, degli ambasciatori d'Italia. Ecco, tu vedi, siccome sei sulla parte economica, abbiamo parlato molte volte di gestione, di prodotto, eccetera. Come vedi il futuro, anche nell'immediato, dei giovani che intraprendono startup nel mondo del cibo? Credi che sia una cosa così ripetibile, così facilmente ripetibile, oppure credi che possa tornare ad essere un prodotto o un lavoro solo artigianale per essere di qualità e per valorizzare sempre di più l'Italia? No, io credo che il comparto della ristorazione possa fare esattamente la stessa cosa che ha fatto proprio il prêt-à-porter, oppure il design nel caso dei mobili e dell'arredamento, cioè quello di riuscire a coniugare la parte artistica, la parte immaginativa, la parte più fantasiosa, che normalmente è quella che viene in cucina con i cuochi e con lo chef, con la parte industriale, quindi la capacità di riuscire a serializzare in un certo senso il servizio ristorativo, pur mantenendolo ad alto livello, ad alta gamma. Non è detto che la serie, come spesso si immagina, debba appiattire la qualità. Cioè, ecco, però la serializzazione dell'arte, potremmo dire, no? Che poi, esattamente. Poi il concetto dei multipli dell'arte figurativa. Quando parli dei multipli, normalmente la gente arriccia un po' il naso, perché non è il prototipo che in certo senso è il massimo dell'originalità. Però se in cucina si fanno le cose con un metodo che è un metodo molto scientifico, allora questa cosa può essere facilmente replicabile. e le cucine, diciamo, meno nobili della nostra, prendiamo, non so, la tedesca, prendiamo l'inglese, ci insegnano questo, che pur avendo delle tradizioni che sono delle tradizioni meno raffinate delle nostre, loro riescono poi dopo, dal punto di vista dimensionale, a creare delle vere e proprie industrie della ristorazione. Senti Severino, ho una grande idea, perché tu hai fatto queste liste, anzi ti ringrazio per avermi coinvolto per esempio sui film, hai fatto queste liste straordinarie con tutta una serie di personaggi che raccontavano, in qualche modo raccontavano la propria vita attraverso i libri preferiti, attraverso i film preferiti, forse anche le canzoni. Ma si può estendere il concetto alle ricette? Io, se vuoi 10 ricette pronte, ce l'ho, eh. Sì, e poi vorrei sapere, vorrei sentire anche le tue. Ma io ho una ricetta che è il mio punto di, la mia punta di diamante, nel senso che io ho, pure abitando a Milano da tantissimi anni, ho radici pugliesi, perché la mia famiglia è una famiglia della Puglia, e quindi ogni tanto io ritorno in Puglia, ma l'unico modo per rimanere in contatto con la mia terra è quello di cucinare quando posso. E io ho un piatto prediletto, che è un piatto molto semplice, che è la focaccia di mia nonna Maria, che è una focaccia pugliese, che è un piatto autentico che è stata tramandata da lei a mio papà, da mio papà a me, e io poi dopo ai miei figli, addirittura ai miei nipotini. E se volete ve la racconto. Sì, assolutamente, se c'hai un 30 secondi poi ti lasciamo al sabato mattina, allora. Se ce la dai velocemente io prendo nota, sono anche veloce. Vado veloce. Vai. Allora, innanzitutto bisogna fare la pasta, e la pasta ha farina bianca, diciamo mezzo chilo, 250 grammi di farina integrale, quella vera, e poi dopo tre patate grosse, le fai lievitare con i soliti panetti di lievito e il sale grosso, fai riposare in modo tale che la pasta cresca, e poi una volta che è bella lievitata la metti in una teglia grande con moltissimo olio abbondante, poi stendi e lasci l'impronta delle dita come se fosse un materasso, ci metti dei perini tagliati a metà, dei pomodori perini, molto origano e sale grosso. In forni a 180 gradi per 20-25 minuti, e poi se sei anche fortunato che sei magari in riva al mare, te la mangi diciamo intorno alle 12 con un bel rosato. Mamma di Puglia, mia, freddo. O magari con un prosecco conegliano valdobbiadene, oppure con un bel lambrusco, e poi sei felice. Ognuno ha la propria ricetta, ognuno ha il proprio modo di agire nella cucina. Grazie Severino. Grazie a voi. Pensa alle liste delle ricette. Io metto facciamo insieme. Posso mettere spaghetto con le vongole, mettiamo il baccalà alla portoghese a brass. Poi che altro ci possiamo mettere, Oldani? Mi sarei aspettato prima di qualsiasi cosa la cacio e pepe. Prima di qualsiasi cosa, sì. Io credo che su 10 piatti ci saranno 6-7 carboidrati. Va bene. Vabbè, ragazzi, quantità, del resto... ricordati sempre quantità e poi va tutto bene. Va bene, dai, adesso bene. Facciamo il seconda ricetta, siamo. Vai, partiamo, vai. Legane con latte, carciofi, molto molto semplice. Legane. Pasta, è una pasta, anche qui possiamo agire con una pasta fresca, per cui dedico questo piatto al mio amico Pier. Bravo. Molto semplice, possiamo farla sia con le uova che solamente una farina di grano duro e acqua, impastiamo, stendiamo la nostra sfoglia, più o meno io direi fare sfoglie da 10 cm. Che poi andremo ad avvolgere, a tagliare con un coltello ben affilato, ottenendo delle legane di un centimetro più o meno. Lo spessore della pasta, in base alla preferenza che il cuoco, nel mio caso a me piacciono molto spesse, però sì. Molte altre persone preferiscono sottili, per cui decidete voi lo spessore di qualche millimetro della pasta, un po' come lunga mare, di 10 centimetri, però la lunghezza deve essere contenuta e larghezza di un centimetro. Cuociamo queste nostre legane, a parte avremo fatto saltare dei carciofi con uno spicchio d'aglio in camicia che terremo a parte. Stavo dimenticando una cosa che era il segreto di questa ricetta: la cottura di queste legane deve essere fatta con, udite, con del latte, quindi non acqua, ma un latte bollente, dove andremo ad aggiungere le legane, le cuociamo per quei 4-5 minuti al massimo, le scoliamo, avranno questo profumo leggero di latte che secondo me è molto coinvolgente e molto adatto per essere servito con un carciofo che molte volte è leggermente amaro, per cui questa è la mia ricetta, dove la cottura dà la particolarità del latte, e poi una volta terminato il nostro piatto, che abbiamo piazzato nelle nostre fondine le legane al latte, potremmo aggiungere, se naturalmente il nostro fornitore di pesce se li trova, dei gamberi rossi o crudi, crudi, ok, oppure leggermente scottati al vapore, che hanno una consistenza diversa per qualche secondo, poi un velo d'olio e una macinata di pepe nero. Meraviglia, meraviglia. Va bene, ripartiamo fra un attimo da qui. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melg le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Più delle virtù spesso sono i vizi a dirci chi siamo, le ombre prima ancora delle luci. Per raccontarli userò il metodo che conosco meglio, le storie. Linee d'ombra è il nuovo programma di Radio 24 che racconta i 7 vizi capitali attraverso le storie di vita degli ascoltatori. Se volete raccontare una vostra storia di superbia, invidia, ira, accidia, lussuria, gola o avarizia, non perdete tempo. Scrivete una o due pagine e inviatela a lineedombra@radio24.it. Io sono Matteo Caccia e la racconterò ogni giorno alle 15 su Radio 24. Salve a tutti, da Massimo De Donato vi aspetto ogni sabato alle 22 a Strade e Motori, lo spazio di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Cercheremo di capire come sta cambiando questo mondo, quali automobili vedremo sulle strade nei prossimi mesi, qual è il futuro delle motorizzazioni tradizionali e come l'auto elettrica cambierà le abitudini degli italiani. E siccome anche l'occhio vuole la sua parte, sul sito di Radio 24, nella sezione auto, video, clip, i test su strada, le immagini e le schede dei nuovi veicoli provati. Strade e Motori, ogni sabato alle 22 su Radio 24. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. Mangia come parli, mangia come parli. Beh, non male, non male questa, ma Legane o Lagane? Legane, a seconda del punto, non lo so, è un dialetto zona. Della zona e sono dialetti per cui io Legane o Lagane. Adesso il concetto poi... comunque è lo stesso, è quello che pasta fresca buona. Eh? Pasta fresca fatta con farina e acqua oppure farina e uova, per cui a seconda della zona c'è il nome adatto nel dialetto anche o la ricetta. Assolutamente, molto bene, bravo, bravo Dani, mi piace, molto preparato. Facciamo lo spazio news, dai, facciamolo, vai! Allora, il tribunale inglese ha stabilito che il veganesimo è come una religione, cioè non è discriminabile. È una sentenza storica che è arrivata dopo un ricorso di un vegano etico che era stato licenziato. Praticamente, che cosa hanno deciso i giudici? Che il veganesimo etico, quindi per motivi, diciamo, di coscienza, di sensibilità, è per tutto paragonabile a una religione o a un credo filosofico. Per cui i seguaci di questo tipo di filosofia non possono essere sottoposti a nessuna forma di discriminazione in base a quella che è una dei capisaldi delle leggi inglesi, che è l'Equality Act, e questo è stato stabilito dal Tribunale del Lavoro britannico, che ha sentenziato su un caso che farà inevitabilmente giurisprudenza. Il caso è stato sollevato sul ricorso di questo Jordi Casamiciana, che è un impiegato della League Against Cruel Sports, la Lega contro gli sport cruenti, un'organizzazione benefica a difesa degli animali. E beh, insomma, lo aveva licenziato qui questa Lega, questa associazione, per aver avanzato obiezioni sul fatto che il fondo pensioni dell'associazione stava investendo in società coinvolte in test sugli animali. Insomma, sono i tempi, sono il segno dei tempi. E poi delle, le varie religioni che abbiamo nel mondo ci hanno insegnato anche un po' a mangiare. Se noi andiamo a fondo nelle religioni, noi potremo mangiare molto meglio di come siamo adesso, voglio dire. In generale il concetto è quello appunto della non discriminazione a 360 gradi, quindi non soltanto quando c'è una religione vera e propria, ma con dei sacramenti e con tutto il resto, ma anche quando c'è una filosofia così precisa e una sensibilità così precisa. Il gelato in Italia piace artigianale, mi associo a tutto questo. Io consumi mondiali arrivano addirittura a 16 miliardi, ma l'Italia tiene al primo posto la propria posizione, una leadership salda. Quanto per persona più o meno? Guarda, ti posso dire che ci sono 150.000 lavoratori in Italia. Il gelato artigianale è prodotto da 108.000 gelaterie in 76 paesi diversi del mondo. Il fatturato, te l'ho detto, 16 miliardi di euro, quindi con un'ulteriore crescita del 6% rispetto all'anno prima. Adesso pro capite non, il conto non te l'ho fatto. Io direi un chilo alla settimana, se fossero come me, un chilo alla settimana è tanta roba. Però guarda, ti do i numeri, perché poi sai, insomma, questa è, anche, è pur sempre la radio di Confindustria, anche se noi ogni tanto cazzeggiamo un po', ma insomma l'Italia ha questa leadership mondiale, 39.000 gelaterie, 10.000 sono proprio specializzate, cioè sono semplicemente gelaterie, altre 29.000 invece sono bar che hanno anche la parte pasticceria e la parte gelateria. 150.000 persone lavorano in questo settore, un fatturato di quasi 3 miliardi l'anno, insomma devo dire che è una grande economia. Cosa molto importante, soprattutto perché il gelato nel mondo si sta affermando con il nome gelato, non ice cream. Questa è una cosa molto importante. È un po' come cantera ai noi nel calcio, purtroppo, invece che vivaio, ma lì ci rifaremo, dai, che stiamo tornando. Arrivano le clementine sostenibili, c'è una campagna Made in Italy con un accordo fra la Feder Distribuzione, la Coldiretti e il FAI, rispettano l'ambiente, rispettano la biodiversità, e questo è un protocollo d'intesa molto importante che è stato sottoscritto da queste associazioni. Questo porterà sugli scaffali dei supermercati e dei mercati nazionali una selezione di prodotti di alta qualità, e non è un caso che ne parliamo oggi, perché sappiamo che la Calabria è, assieme alla Basilicata, una grande produttrice, per cui insomma l'iniziativa vuole valorizzare le clementine tricolori per l'intero periodo della raccolta. E poi in gruppo 2020 menù tra le stelle con 20 fuori classe della ristorazione lombarda, ce ne parla Lio Pellegrini. Ciao Lio. Ciao Lio, ciao, buongiorno. Tutti, buonasera. Ciao. Come stai Giuliano? Tutto bene? Tutto a posto? Bene, una meraviglia con questa guida che ha preso ormai una bella posizione, piace, bella, redatta in una maniera straordinaria. Ci sono 19 altri colleghi oltre a noi assolutamente agguerriti per poter portare in tutta la Lombardia questo marchio in gruppo che ha avuto un grandissimo successo, insomma. Assolutamente, tutti insieme, 20 ristoranti, 10 stellati, le eccellenze territoriali, perché insomma il territorio della Lombardia è un territorio anche vario, no? con uno spettro molto ampio, con una gamma molto ampia di eccellenze. Sì, assolutamente, infatti anche sulla scia dell'ultima guida Michelin appena uscita si parla proprio come della Lombardia, la regione più stellata d'Italia, quindi questo poi si rifà anche alle antiche, vecchie parole del grande Luigi Veronelli, che addirittura aveva quasi battezzato Bergamo come capitale della ristorazione italiana, perciò è tutto un insieme di cose che ci onora enormemente. Insomma. Senti, c'è molta Bergamo che ha proprio il dominio regionale, ma io volevo capire come funziona praticamente per poter partecipare. Dunque, in gruppo per questa edizione 2020 è iniziata il 14 gennaio e terminerà il 30 aprile, quindi oltre 3 mesi di promozione. Praticamente ognuno, soprattutto i millennial, soprattutto coloro che non si sono mai avvicinati alle tavole della cucina, chiamiamola d'eccellenza, insomma la cucina più importante, possono prenotare liberamente in ognuno di questi ristoranti. Per il numero di persone che preferiscono, insomma, non gruppi enormi, ma in ogni caso solitamente sono coppie di giovani millennial, insomma. E fino al 30 aprile appunto hanno la possibilità di assaggiare un menù completo di bevande, caffè, acqua minerale e vino ad un prezzo fisso di 60 euro. Questo per 17 ristoranti. Altri 3 ristoranti molto blasonati, che sono poi da Vittorio, che sono il Mudec di Bartolini a Milano e Claudio Sadler, invece il menù è fisso a 120 euro per persona. Esatto, quindi c'è la possibilità di trovare una, di sapere anche quanto si spende e che tipo di esperienza si potrà vivere, no? Sì, assolutamente, la cosa molto bella è questa, che io posso approcciare uno di questi ristoranti conoscendo esattamente quella che si presume, ma certamente sarà la qualità, e soprattutto il prezzo, che è fisso. Perfetto, mi sembra molto interessante. Complimenti per l'iniziativa. Io sono stato invitato qualche anno fa, però ero in viaggio, ero via dall'Italia, e sicuramente magari l'anno prossimo ci parliamo, e se posso essere utile per questa causa lo farei molto volentieri. No, devi essere utile. Devi inserire il mio piatto, cioè la cacio pepe lime che fai per me, quella con il cartoccio, quella col cartoccio. Sì, ci può stare. Anche perché il cartoccio è un omaggio a un grande, no? Quindi vero. Quindi voglio dire. Grazie Giuliano. Buon sabato. Viva in gruppo, insomma. Grazie, buon sabato. Assolutamente. Andiamo avanti con la frittata di patata senza uova, olive candite, verza. Senza uova, scusami, senza uova la frittata di patate è un po' dura farla, no? Però vedi, anche qui andiamo. Infatti, ho fatto la ricerca in quella che è la tradizione. Insomma, quello che ci portiamo della nostra cultura, e in questo caso viene chiamata una frittata senza uova perché la sembianza di questa patata lavorata, che adesso spiegherò, ricorda un po' il colore delle uova sbattute, quindi una frittata. È molto semplice, qui utilizziamo delle olive denocciolate, circa 16, quindi 4 per persona, le facciamo appassire in una pentola, in una padella antiaderente, facciamo essiccare leggermente con un calore basso su una piastra a induzione, aggiungiamo 40 g di zucchero, facciamo caramellare leggermente per una decina di minuti, le leviamo dalla pentola e le conserviamo a parte. In un'altra bacinella facciamo 320 g più o meno per 4 persone di purè di patate cotte a parte, private dalla buccia e schiacciate, con 20 g di farina di grano tenero, 30 g di pane grattugiato, lavoriamo energicamente, facciamo 4 piccoli cilindri, li schiacciamo leggermente, alti un centimetro, e li facciamo a questo punto rosolare in un padellino tipo quelli da frittata sui due lati, quindi questa doratura ricorderà vagamente quella che è una frittata di uova normale. Cosa facciamo? Serviamo queste quattro frittatine di patata in quattro piatti, aggiungiamo le nostre olive caramellate, quindi anche queste leggermente dolci, e poi un'insalata di verza che avremo tagliato fine, avremo lasciata per una decina di minuti in acqua e ghiaccio per farla riprendere, e poi avremo scolato e condito con un po' di aceto, io metterei un aceto importante, un aceto balsamico, un goccio di olio e delle scaglie di sale, quindi adageremo questa insalata molto fresca di verza sopra le nostre finte frittate di patate. Quindi in pratica diciamo che l'abbiamo chiamata frittata, ma tanto frittata non è, o sbaglio? Sai, non vorrei bestemmiare. Come però, quando parlavamo della Sicilia, degli arancini che sembrano arance però hanno tutt'altro che l'arancia, quindi la forma che ci porta a dedurre alcune cose fa parte della cultura e della gastronomia italiana, per cui questo è un altro, come gli arancini in Sicilia, queste frittate di patata senza le uova ci ricorda un prodotto, ci porta un po' anche nel fantasticare, nella filosofia, certo, della cucina molto concreta, certo, del gusto. Anche la forma, anche l'estetica, no, di un piatto può avere una sua... Sai che adesso è di moda magari cambiare le forme dei prodotti o riprendere, fare un qualcosa. Adesso guarda, nella mia cucina stiamo rifacendo una cotoletta alla milanese dove l'osso sarà edibile, quindi abbiamo fatto uno stampo che riprenderà l'osso, che però sarà edibile, non sarà da gettare. Qui mi vengono in mente queste frittate senza uova o l'arancino senza l'arancia dentro, di una cucina che è sempre pronta, è una cucina sempre in movimento, e quindi questo mi fa molto piacere leggerlo adesso che mi documento, vedo tutto quello che ha di tesoro e di oro la nostra cucina italiana. Favoloso. Va bene, ripartiamo da qui, abbiamo ancora altri ospiti, un'altra ricetta, gli nostri soldati fra poco. Mangia come parli. SOS Oldani, sei pronto, chef? Pronto, prontissimo. Andiamo, vai. SOS Oldani. Veronica, da Mola di Bari. Veronica, vai. Salve, chef. mi hanno regalato 2 pacchi di pasta al caffè. Mi darebbe un consiglio su come utilizzarla e quali ingredienti abbinare? Grazie. Guarda, mi capita fagiolo. La pasta al caffè. Pasta al caffè probabilmente esiste, anzi esiste perché l'ho vista anch'io. Io suggerirei di cucinarla. Oggi abbiamo dato una ricetta con quel quid in più, che era la cottura nel latte. Sì. Non fare battute, Pier, perché non vedo che stai sorridendo. Non la faccio. Okay? Per cui una pasta al caffè la cuocerei nel latte. Con poco latte, la mantecherei alla fine senza scolarla, a mo' di risotto, per cui farei un caffè latte salato in pasta. Può andare? Ci può stare, no? È una cosa geniale, scusami, caffè latte salato in pasta. La cottura, ma il sapore di... poi qual è? È un sapore salato comunque. E un po' di sapidità, poi il caffè, cioè, è entrato a pieno... insomma, il caffè nella cucina oramai è un ingrediente molto importante, per cui capisco una pasta al caffè e altrettanto, come abbiamo letto oggi, questa pasta che abbiamo cucinato nel latte... Per cui può essere un latte caffè salato che viene messo in un primo piatto. Direi ci sta molto. Bene, bene, perfetto. Angela, perché è momento Puglia, orgoglio pugliese. Angela da Margherita di Savoia, vai. Buongiorno chef. A che punto della cottura di un piatto è consigliabile aggiungere le erbe aromatiche tipo il rosmarino per far sì che queste non risultino amare? Grazie. Beh, allora, il rosmarino è un'erba legnosa, per cui un'erba molto profumata. Buona, che potrebbe essere aggiunta nel momento, alla fine della cottura, gli ultimi 2 minuti, aggiungo rosmarino. E se invece dovessimo parlare di erbe fini, quindi cerfoglio, dragoncello, anche la maggiorana piccolina, eccetera, o origano fresco, le aggiungerei assolutamente nel piatto alla fine. Cioè, quando è già piazzato il piatto, alla fine aggiungerei queste piccole erbe. Però se sembra via rosmarino, e farei un paio di minuti di cottura prima di levare il nostro pezzo di carne, mi viene in mente. Ma mi sembra tutto molto interessante. Qual è, se dovessi chiedere, qual è la tua erba preferita? A me, a me il basilico, A seconda della stagione, sono molto stagionale, per cui menta, basilico le preferisco nella primavera, estate, in questo periodo magari vado più su timo limonato, rosmarino, salvia. Voglia di basilico. Voglia di basilico. Buona salvia, buona. Vai, Andrea da Giffoni, Valle Piana, provincia di Salerno. Vai, Andrea. Buongiorno chef, mi piacerebbe fare a casa una tartare di pesce, ma non ho un abbattitore, come posso fare? Grande Andrea, un abbattitore. No, abbattitore in teoria quando noi compriamo il pesce dai nostri pescivendoli è già abbattuto, o perlomeno chiediamolo, quindi ci facciamo dare un pesce abbattuto e poi procediamo con la nostra tartare, per cui non è una cosa molto difficile. Beh, mi sembra, credo, quindi, che sia... Abbiamo dato gioia anche ad Andrea, fantastico. E adesso andiamo invece a farci ispirare da uno chef stellato, ristorante Cafiz, o Quafiz, non lo so, di Santa Cristina da Spromonte. Nino Rossi, benvenuto Nino, come stai? Benissimo, grazie mille per la chiamata, ecco. Come lo chiamiamo Nino, questo ristorante neostellato? Lo chiamiamo? Allora, il ristorante si chiama Cafiz. Cafiz. Da Cafiz, un'unità di misura dell'olio. Ah, giusto, giusto, certo. No, perché mi sembra... questo nome? Eh sì, perché il ristorante è dentro un ex frantoio del 1783. Oh, è straordinario. Fantastico, quindi complimenti anche per la parte, insomma, poetica di comunicazione. Sì, come tra si l'altro sta io con sono, la prima stella? sono sul sito e sto godendo. Devo dirti la verità, non sono mai stato, ma sto veramente godendo. Prego Nino, no, scusami, io continuo a godere guardando le foto. Sì. Complimenti anzitutto per la prima stella. E... Grazie. E come va il lavoro? Come insomma il prodotto, quale tipologia di prodotto lavori e come va il lavoro, naturalmente, visto che sei nuovo stellato? Allora, la stella l'ho ricevuta nel 2018 per la stagione 2019, quindi abbiamo fatto un anno in questo novembre. E diciamo che un po' il mondo è cambiato dopo aver ricevuto questo riconoscimento. Ovviamente non è cambiata per niente la nostra attitudine, che è fatta di ricerca, cucina di territorio e grande amore verso il posto in cui abbiamo deciso di far nascere questo progetto. Noi siamo alle pendici dell'Aspromonte e abbiamo la grande fortuna di poter attingere al mare e alla montagna, quindi siamo un po' fortunati da questo punto di vista. Ci racconti qualche eccellenza proprio dal punto di vista del territorio, qualche prodotto veramente chilometri zero che tu poi riesci a lavorare, rielaborare in maniera assolutamente efficace? Allora, la Calabria ovviamente è un territorio di grandi contraddizioni. Io in un periodo dell'anno riesco a lavorare magari il mango che cresce vicino sulle coste, vicino Reggio Calabria, e abbiamo invece una stagione fantastica di funghi porcini e di tartufi che arrivano dall'Aspromonte. Io diciamo utilizzo poi comunque utilizzo anche i prodotti che vengono dal resto della Calabria. Il nostro nuovo miso, come per gli orientali, che sarebbe l'anduja, perché la mettiamo quasi ovunque, e tantissime altre cose, il pesto piccante che viene dalla zona di Crotone. Insomma, in Calabria abbiamo la possibilità di utilizzare veramente delle grandi materie prime. Il riconoscere gli ingredienti, il saperlo trattare, il come cucinarlo, il come conservarlo, il come servirlo, questo credo che sia alla base della grande cucina. E poi tu hai la fortuna di vivere in un territorio dove veramente hai grandissimi prodotti, e sicuramente questo vedrai che ti gioverà a tutto quello che sarà anche al tuo business di ristoratore. Certo, sicuramente qui ovviamente ci sono dei profumi assurdi, ci sono agrumi. Io ho un'azienda agricola, produco olio ed agrumi, e appunto poi basandomi proprio su questo ultimamente ho fatto l'ennesima pazzia e ho aperto un cocktail bar che si chiama Aspro, che è dedicato all'Aspromonte. Ah, certo, c'è cioè il doppio il doppio gioco della parola Aspro, dell'aggettivo Aspro e dell'Aspromonte. Complimenti. Spero davvero di riuscire a trovare. Grazie di cuore. E adesso noi chiudiamo in bellezza, anzi in dolcezza, con la tegola di mandorle, pera moscatella e polvere di origano. Ah, qui è molto semplice, un dolce classico composto da mandorle che vengono frullate con 100 grammi di zucchero, più o meno 100 grammi di zucchero semolato, 30 grammi di burro, 30 grammi di farina, con 200 grammi di mandorle. Viene tutto frullato, a parte montiamo degli albumi d'uovo, circa 100 grammi di albume con 40 grammi di zucchero semolato, neve ben ferma. Aggiungiamo questo albume all'impasto di mandorla, creiamo delle piccole tegole che adagiamo su una placca da forno e cuociamo più o meno a 190-195 gradi per 12 minuti, quindi a forno preriscaldato, e poi avremo queste tegole molto croccanti, molto direi dolci, profumate, abbinate a una cosa un po' particolare, a un succo di pera che noi facciamo con delle pere fresche, magari centrifugate con un tocco di succo di limone. Metteremo questa centrifuga di pera in 4 piccoli bicchierini e serviremo, con giusto per stare nel territorio, con un leggero tocco di polvere di origano fresco e un tocco di polvere di peperoncino. Meraviglia, mi hai fatto sognare come sempre, chef, grazie. Abbiamo finito, basta ricette. È volata. Alla prossima, ciao Piero, ciao.